Siccome non è vero che la storia non si ripete mai se non in forma di farsa, se non altro perché di questi tempi farsa e tragedia sono troppo strettamente intrecciate per permetterci di ricorrere al classico aforismo marxiano, stiamo tutti assistendo con interesse a un'escalation che, salvi miracolosi imprevisti, porterà a una bella ripresa dei raid aerei sull'Iraq, quello che i mezzi di informazione chiamano speranzosamente la guerra, anche se non è chiaro come possa definirsi guerra il fatto che una superpotenza bombardi un paese inerme, quale ormai l'Iraq dopo il disastro del 91. Ma tanto è, e la procedura si sta ripetendo con la debita regolarità: minacce americane, palese inettitudine ONU, progressiva adesione degli alleati europei, compresa l'Italia dell'Ulivo, che non può perdere occasione per esibire la propria sottomissione, appelli del Papa, chi più ne ha più ne metta. E sta anche ricominciando, col dovuto anticipo, il dibattito preventivo, direi, su perché mai in tanto furore guerresco quanti a una soluzione militare per cultura e convincimento si oppongono, quelli che talvolta si chiamano i pacifisti non riescono in alcun modo a far sentire la propria voce. Se ne è occupato giorni fa al microfono aperto della nostra radio, con garbo e competenza che gli sono propri, il nostro amico Umberto Gai. Ora, gli ascoltatori intervenuti in quell'occasione hanno detto molte cose sensate, hanno fatto molte ipotesi intelligenti, alle quali mi permetterò solo di aggiungerne una che non mi sembra di aver sentito esprimere, però non ho seguito la trasmissione fino in fondo, per cui se qualcuno l'ha espressa prima mi scuso fin d'ora con lui. È l'ipotesi per cui il pacifismo non fa sentire la propria voce per il semplice motivo che in Italia un pacifismo al momento non esiste. Comprendetemi, non intendo dire che non esistano in Italia sinceri e volonterosi amici della pace, gente che al di là delle posizioni ideologiche preferisce la pace alla guerra e prova giusta ripugnanza di fronte a ogni manifestazione di violenza, specie se statale e armata. Di questi figuriamoci, ce ne sono tanti, me e voi compresi. Quello che manca, forse, è la cultura della pace, la capacità di organizzare il proprio sistema di valori in modo da mettere in risalto adeguato l'obiettivo del rifiuto della guerra. E può sembrare un paradosso in un paese di tradizione cattolica, con una chiesa che da sempre celebra la mansuetudine ed esalta gli inermi, e con una forte presenza della sinistra nel cui patrimonio ideale non figura esattamente l'esaltazione dei generali. Patrimoni ideologici a parte, il nostro è anche il paese in cui le forze che di quei patrimoni sono portatrici più sembrano vergognarsene, e più sono disposte a barattarli come anticaglie desuete in cambio degli straordinari portati della modernità. Lasciamo perdere la Chiesa, su cui non sono competente, ma lo zelo con cui gran parte della nostra sinistra ha accettato, ha abbracciato le esigenze della società di mercato, non lascia un gran spazio ai vecchi discorsi sulla pace e sulla guerra. Non perché qualcuno in quest'area si sia messo a teorizzare l'opportunità dei bombardamenti a tappeto, figuriamoci, sono tutti troppo buoni per farlo, ma insomma, il dominio del mercato significa competizione a ogni costo, esaltazione di chi vince, disinteresse per chi viene sconfitto. La società di mercato è egoista, è violenta, considera vecchi ed insopportabili lagne le pretese di chi chiede che lo sviluppo non avvenga soltanto a spese di una delle parti in causa, considera giusto che a ogni livello ci siano dei vincitori e dei vinti, ed è soprattutto profondamente convinta che la propria particolarissima etica abbia un valore universale, e tanto peggio per chi non ci sta. E in fondo, tra questa logica e la logica dei bombardamenti a tappeto non è che ci sia poi quella gran differenza. La pace non è una cosa che può darsi o non può darsi in qualsiasi struttura organizzata, se c'è è meglio e se no si può cercare di introdurcela. Il pacifismo può esistere solo in una società che sia strutturalmente almeno compatibile con la pace. È difficile che alligni in una realtà beduina come quella in cui ci capita di vivere, anche se non sempre ce ne rendiamo conto. Di solito i lodatori delle bombe presentano la loro scelta come una scelta sofferta, drammatica, imposta però da motivi di coscienza, per la consapevolezza che altro non si può fare. Sarà anche vero, anche se fa un certo effetto sentir parlare della propria coscienza a gente come Taradas. Ma anche la scelta opposta, la scelta di chi rifiuta la guerra, può essere difficile. Vi ricordate solo pochi anni fa della Bosnia? Vi ricordate in quanti, anche fra noi, avevano finito per convincersi che per por fine a quello scempio qualcuno avrebbe dovuto decidersi a intervenire? E visto che da cosa nasce cosa, ricordate l'entusiasmo generale quando gli americani, spazzando mesi e mesi di esitazioni europee, mandavano i loro aerei a bombardare i serbi, il cui governo naturalmente se l'era voluta? E vi ricordate le accuse? E se non l'accuse, almeno l'ironia che persino dai microfoni di questa radio si riservava ai pasdaran della pace, a quelli che non mostravano ad apprezzare quel tipo di soluzione? Quell'atteggiamento è la prova come, anche in ambienti, diciamo così, non sospetti, in una situazione di crisi, la logica del risultato a qualsiasi costo possa prevalere sulle considerazioni relative alla vicinità dei mezzi impiegati per raggiungerlo, che poi è il problema base del pacifismo. Perché le scelte si legano l'una all'altra. Perché mai oggi gli stessi americani non dovrebbero bombardare l'Iraq? Nel 91, come nel 95, la guerra produsse risultati eccellenti, tanto dal punto di vista dei vincitori che salvaguardavano i loro interessi petroliferi, quanto da quello di Saddam Hussein, il cui potere fu confermato, che si aspetta infatti di vederselo confermare e rafforzare ancora di più dalla prossima aggressione. Il punto di vista del popolo iracheno potrà essere diverso, ma chi se ne frega, insomma, loro non contano. Il rischio di morire sotto le bombe è abbastanza rilevante rispetto alla sicurezza di morire di fame grazie alle sanzioni che da 7 anni l'Occidente impone a quel paese. Nella logica della guerra, proprio come in quella del mercato, la vita umana vale pochissimo. There's something happening here. What it is ain't exactly clear.